Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ogni volta che vado ad una convention aziendale, penso sempre che ogni 5 minuti su uno schermo sopra il palco dovrebbe apparire una scritta che dice così: stiamo solo facendo una convention aziendale, non stiamo salvando vite umane. A rotazione, ogni 5 minuti, perché il problema è che a prendersi troppo sul serio, poi finisce che uno ci crede davvero a quello che dice. Io mi chiamo Franco Francescato, ho 71 anni, sono in un paesino ridente che si chiama Moasca, nel Monferrato. Io invece, a differenza di Franco, sono in una cittadina ridente nella Lombardia che si chiama Milano, e per la fattispecie in via Monterosa 91. È martedì, giusto? 27, magari se me lo scrivessi la prossima volta, Viola, faccio tutto io, eh. Martedì 27 settembre 2011, sono le 4:08 del pomeriggio. La puntata di oggi è una puntata dedicata a delle persone che in particolar modo ascoltano questo programma. Lo so perché, no, non perché gli piaccia particolarmente, semplicemente perché sono probabilmente in automobile in questo momento, e sono tutti i venditori. La puntata di oggi si intitola, cioè il racconto di Franco Francescato si intitola proprio Il Venditore. Parla di un momento particolare della vita dei venditori, che sono le convention aziendali. Non so se proprio tutti i venditori partecipino a delle convention aziendali, e so chiaramente che ci sono convention aziendali che non riguardano solo i venditori. La puntata di oggi però è dedicata a voi, che siete in automobile, avete appena finito un appuntamento, state andando ad un altro, o magari, magari alle 4 avete finito e state tornando a casa. Vorrei semplicemente sapere dove siete, come vi chiamate, dove siete e che cosa vendete. 349-238-6666. Mi aspetto roba particolare, cioè non tipo vendo sciampi, ma tipo vendo quel dado d'acciaio. Anche gli sciampi vanno bene. Però io so che ci sono in serbo da qualche parte nascosti sulle autostrade italiane dei venditori che vendono robe tipo dadi d'acciaio per le ruote dei carrelli dei Boeing 727, solo i 727, perché già i 47 hanno degli altri dadi di cui si occupa il mio capo area di fianco. 349-238-6666. Sono stato di recente, ve lo racconto poi meglio più tardi, a una convention aziendale in cui c'erano degli informatori scientifici, e ho cambiato idea sull'informatore scientifico. Prima perché credevo che l'informatore scientifico vendesse le medicine, e invece no, mi hanno redarguito, mi ha detto che no, il venditore non vende le medicine, l'informatore informa, altrimenti si chiamerebbe venditore. E poi ho scoperto che gli informatori scientifici non hanno più, avete presente il trolley, quello largo e stretto in cuoio, con cui entravano dal medico: salve, scusate, io devo solo entrare un attimo dal dottore, ci sono 6 persone in fila. Ecco, non sono più così. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it. Vi dicevo, la storia di oggi è una storia che parla di un venditore, parla di Franco, nella fattispecie, che è il protagonista di questa storia, e di questa particolare convention aziendale. Io ho partecipato, come vi dicevo, qualche tempo fa, per la prima volta a una convention aziendale, perché non ho mai fatto parte veramente, insomma, in maniera pratica di un'azienda. Sì, cioè, ci sono stato perché, diciamo, l'ho moderata, diciamo così. E quindi oggi avevo chiesto alle persone che leggono e che partecipano al programma attraverso Facebook di raccontarmi delle loro convention aziendali, e ne sono arrivate. La storia di Carlo: convegno ICE a Roma 1999, opportunità di investimento in Cina, tutte cose scontatissime e raffiche di sotto segretari, lampadati e ignoranti, però buffet da 1000 una notte e cazzeggiamento a Roma by night, il tutto pagato dall'azienda cui ovviamente della Cina gli interessava una cippa, così mi scrive Carlo. Roberto: al di là delle convention bisognerebbe pensare ai casi umani che le frequentano, e Roberto ha ragione, anche se io penso sempre che ognuno è un po' il caso umano di se stesso, quindi occhio, perché se c'è un caso umano di fianco a te, probabilmente anche lui pensa lo stesso di te. 349-238-6666, solo venditori, in giro per strada, cosa avete venduto, dove state andando e dove vi trovate. Questa invece è la storia di Franco. Le ore che precedono l'inizio di una convention venditori di una grande azienda sono sempre ore tese, frenetiche, anche se sono piene di tempi morti in cui la tensione e i nervi devono essere tenuti ben sotto controllo. Il problema è che ci si prende sempre troppo sul serio. se guardi le facce di quelli che ci partecipano, sembrano quelle di una squadra di astronauti, sapete, quelle che si stanno per lanciare contro un asteroide per salvare la Terra. Ecco sì, ogni volta che ci vado a queste convention, penso sempre che tipo ogni 5 minuti, su uno schermo sopra il palco, dovrebbe apparire una scritta che dice così: attenzione, stiamo solo facendo una convention aziendale, non stiamo salvando vite umane. A rotazione, ogni 5 minuti, perché è così, a prendersi troppo sul serio, poi finisce che uno ci crede davvero a quello che dice. Comunque, anche se la convocazione è per un'ora precisa, gli arrivi dei componenti del cast, quello dello spettacolo, sono scaglionati, a seconda della maggiore o minore puntualità e professionalità, ovviamente, di ciascuno. In uno degli inevitabili tempi morti, eravamo al primo caffè che si trova nel bar della piazzetta Filodrammatici, in centro a Milano. I cellulari giù in teatro avevano difficoltà, quindi il bar era un punto d'appoggio, una specie di centro logistico e strategico. La mia collaboratrice era meno nervosa di me, ma voleva sfogarsi dei capricci della presentatrice. Diceva che sì, era arrivata puntuale, ma adesso nel suo camerino stava facendo un sacco di storie, perché il portaabiti aveva solo grucce di plastica e non di stoffa imbottita. Le avevamo fatto trovare frutta fresca, dolci, acqua minerale, liscia e gasata, fiori, salviette calde, specchiere e poltroncine. Eppure questa si lamentava per una gruccia non imbottita. Questa che fino a 3 anni fa stava in piedi 2 ore per fare un casting di pubblicità. Appunto, ci si prende troppo sul serio. Io invece ero improvvisamente assente perché non riuscivo a staccare gli occhi da un tizio, un personaggio che non poteva non attirare la mia attenzione. Era un signore alto e magro, elegante, in una miss da pomeriggio di mezza estate. Aveva messo la catenella a una bicicletta nera, stilosa, da città. Aveva attraversato la strada con i suoi stivaletti rossicci, abbassato il risvolto dei pantaloni chiari affusolati ed era entrato al bar. Aveva scambiato un paio di battute di politica con il barista, che senza esitare gli aveva versato un bicchiere di bianchino. Portava con eleganza un gran naso, una barba ben curata, una capigliatura più bianca che grigia, più lunga che trascurata. Gli arrivava al colletto di velluto della giacca. Assolutamente unico il modo in cui era vestito, in cui incatenava la bicicletta con una catenella, un paletto. Era incuriosente perché continuava a entrare, a uscire da sto bar, fare un giro, tornare dopo un quarto d'ora e continuava a parlare col barista, premeva il bianchino, si accendeva uscendo una sigaretta. La mia assistente mi disse che il giornalista che doveva moderare la convention stava girando lì intorno senza riuscire a trovare il portone, perché forse il tassista aveva problemi col GPS. Mi disse: esco io a cercarlo e l'accompagno all'ingresso posteriore, giù. Appena prima di lei dal bar era uscito quel signore, il signore elegante, cominciando a pedalare verso Piazza della Scala con una sigaretta appena accesa fra le labbra. Scendemmo in teatro. Arrivati la presentatrice e il giornalista, mancavano ancora l'opinionista e il comico formatore. Dovevamo aspettare ancora e quindi tornammo al bar. Probabilmente aveva finito il giro e la sua sigaretta, perché il signore dal profilo importante era ancora lì. Un altro bianchino, un'altra sigaretta, un altro giro in bicicletta. Altro bianchino e poi di nuovo fuori. Quando uscì non potei fare a meno di interrogare il barista, che evidentemente lo conosceva molto bene. Quel signore distinto dal profilo importante non lavora più, moglie e figlia l'hanno lasciato, soldi però deve averne messi da parte. Gira sempre qui intorno, aveva un ufficio importante in galleria da assessore comunale, fino a qualche tempo fa, quando l'hanno cuccato a prendersi una bella bustarella. Come vi dicevo prima, non più tardi di qualche settimana fa, sono stato anch'io a una convention aziendale. E il racconto di Franco parla di questa convention e di questo tizio di passaggio su una strada e delle persone che si incontrano in queste convention. Di personaggi dal profilo importante, come lo ha definito lui, se ne incontrano in frangenti abbastanza rari e infatti se ne rimane colpiti per diversi motivi, no? Per il portamento, per l'abbigliamento, ma per lo stile. È meno facile invece notare le persone che non si vestono in maniera bizzarra o che non hanno un'eleganza particolare che le distingue. La convention a cui ho partecipato era piena di persone normali, come me, come Viola, come Bonini, come Paolo. La categoria dei venditori però mi ha sempre affascinato, anche se quelli in realtà non erano venditori veri e propri. Erano informatori scientifici, visto che rappresentano un'azienda farmaceutica. E ho scoperto, lì l'ho scoperto, che esistono delle leggi che impediscono di vendere un farmaco, ma consentono solo di informare su quel farmaco. La differenza è molto sottile ed è anche un po' subdola, visto che alla fine sempre di vendere si tratta. Però loro te la indorano molto bene e alla fine quasi ti convincono. Cioè quasi ti convincono che le aziende farmaceutiche non hanno altro obiettivo se non la salute delle persone. Ora, io non so se siete mai stati ad una convention aziendale. È un onore che tocca a molti, ma è un privilegio che spetta a pochi. Perché osservare da dentro le dinamiche tra i colleghi, le strutture gerarchiche che fanno finta di nascondersi e invece sono più visibili che mai, è molto divertente per uno che non c'è mai stato lì dentro. E un po' si prova invidia per loro, e un po' no. E un po' ho pensato che io, che ho 36 anni nel 2011, non avrò mai la possibilità di dire lavoro qui da 25 anni. E un po' mi dispiace, e un po' no. Non potrò mai dire, guarda, conosco questo collega da più tempo di quanto conosca mio figlio. È un po' perché non ho figli, e un po' perché alla fine, tra una roba e un'altra, cambio colleghi ogni 5-6 anni. Quindi non potrò mai fare quelle cose tipo l'imitazione del capo davanti a tutti, mentre lui è lì di fianco e sorride bonario. Non lo potrò fare perché non ho mai tempo a sufficienza per sviluppare un rapporto così intimo con un capo. E tutto questo un po' mi dispiace, e un po' no. Le convention aziendali sono un po' l'esplosione di queste situazioni, di queste dinamiche. Non ci sono pareti di ufficio a separare, non c'è la mensa, non c'è la macchinetta del caffè come punto d'incontro. Tutti sono lì, insieme per uno, due o tre giorni, e tutti capiscono che sono lì solo perché lavorano, tutti insieme, non per altro. Io però mi ricordo che un personaggio dal profilo importante in quel posto lì l'ho conosciuto, anche io, come Franco. Aveva un nome che ricordava quello di un cantante italiano degli anni 50. Si chiamava, e si chiama tuttora, Freddy Cedrone. Nome vero, eh? Ha raccontato della sua esperienza di venditore tra gli applausi e le risa di tutti i presenti, tutti i colleghi. Ha detto addirittura a un certo punto che lui aveva interrotto le sue ferie per tornare al lavoro e inoltrare un ordine che altrimenti sarebbe stato rimandato al mese dopo. Io lo guardavo esterrefatto, invece tutti intorno lo osservavano come una specie di eroe aziendale. La convention, cioè la prima convention della mia vita, si è conclusa con una scenetta a metà tra il saggio di fine anno di una scuola di teatro comico e una festa dell'oratorio. Cioè è finita così, un gruppo di persone sono salite su un palco e il tizio, il collega più brillante dell'azienda, ha attaccato in testa a ciascuno di loro una fascia dove c'erano scritte i nomi delle molecole, tipo, che so io, HDO, colesterolo, progesterone, insomma, robe di questo tipo. E quindi la scena era che tu vedevi signori di 50 o 60 anni con dei figli a casa, probabilmente, con una moglie, un marito, una loro dignità umana, professionale, che si aggiravano vestiti da colesterolo, trasportando piccole sfere di plastica che rappresentavano l'ossigeno o i grassi o chissà che. Gli applausi finali a questa scenetta mi hanno risvegliato da un torpore che mi aveva attanagliato per un quarto d'ora delirante. Non so se siete mai stati a una convention aziendale. Credo che sia un obbligo per alcuni e un privilegio per pochi altri. Bastava accenderli e loro partono. 349-238-6666. Venditori che sono in giro e vendono di tutto. Io vendo mini piscine idromassaggio. Alberto da Venezia, vendo forni per ristoranti. Michele, vendo colla per l'industria. Guido, pavimenti in legno. Con legno a chilometro zero. Ah, legno che non viene trasportato. Quindi c'è, cioè, una volta che hai finito il legno vicino a casa tua, Guido, cambi lavoro. Venditore, autostrada A4, torno a San Pietro Mosezzo. Sto per andare a San Pietro Mosezzo, Novara. Vendo applicazioni web per aziende del settore dolciario, in particolare cioccolatini. Vendo crociere in barca, sono sul Lago Maggiore Marco. Vendo bresaola, prodotta con carne di razza piemontese. però c'era uno, eccolo qua. Silvano, Castel Gabbiano, vendo ugelli spruzzatori a tutti quelli che hanno bisogno di spruzzare con impronte particolari. Ho capito la metà, ho capito solo ugelli, che sono degli spruzzatori. No, sono la parte finale dello spruzzatore, giusto? Quindi neanche lo spruzzatore, solo la parte finale. 349-238-6666. Il protagonista di questa storia di oggi però non sono tutti questi venditori, è solo uno, si chiama Franco ed è al telefono. Pronto Franco? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, bene, grazie. Grazie per il tuo racconto e grazie per essere qui innanzitutto, Franco. Grazie. Senti, mi ricordiamo un attimo quella giornata là, la giornata della convention e dell'incontro con il tizio in giro in bicicletta. Sì. Quanto tempo fa era? Era nell'aprile-maggio di quest'anno, 2011. E io sono uno di quelli fortunati o sfortunati che hanno vissuto centinaia di convention. Perché tu cosa, che lavoro fai esattamente, Franco? Beh, io partecipo all'organizzazione della convention gestendo la parte spettacolare, cioè l'intervento di formatori o presentatori o comici o intrattenitori, quello che è la ciliegina sulla torta, non è la parte dell'azienda che presenta i suoi prodotti o i suoi nuovi prodotti o le sue strategie. Cioè, ti occupi della parte più di intrattenimento? Esatto, la spettacolarizzazione. Senti, ma infatti scusami, tu nel racconto parli di un comico formatore, cioè è la stessa cosa? È una figura professionale il comico formatore? Sì, può essere un comico, un formatore o anche un comico formatore che facendo ridere così motiva le persone presenti alla convention a credere a quello che l'azienda gli presenta. Senti, ma perdonami Franco, adesso ti chiederò al massimo della sincerità. Sì. Di tutte queste convention che tu hai preparato, sì, in buona percentuale, quante erano fuffa? Cioè erano proprio una roba che dobbiamo creare questo evento e far venire la gente, e quante invece avevano un senso e un significato? Ma certo che le aziende quando fanno una convention si prendono molto sul serio, però devi capire il giorno, la serata, la cena in cui si presentano di persona, dal presidente al direttore vendite, ai loro clienti o concessionari o venditori che fanno il fatturato e devono convincerli. Però poi drammatizzano invitando magari presentatori o comici o giornalisti, e questo è quello di cui mi occupo. Ma senti, fammi un esempio, un comico che tu chiami spesso, che è bravo e che fa questa Enrico figura Bertolino. Doppia... Scusami? Enrico Bertolino. Ah, giusto, è vero, lui lo faceva proprio di mestiere, no? Lui è un bravissimo comico e formatore. Faccio un esempio solo perché ho lavorato con tanti e non vorrei... Certo. Senti Franco, e poi ti devo salutare, è la domanda che faccio un po' più o meno a tutti quelli che fanno un lavoro da tanto tempo, perché tu hai 70, quanti anni hai? 71. Dalla foto portati benissimo Franco. Grazie. Ma tra l'altro chi è la ragazza che è con te nella foto? È mia moglie. Scusami? Mia moglie. È tua moglie, complimenti, è una moglie bellissima, poi la racconterò più tardi la foto. Ah no, scusa, no, la ragazza della foto è una presentatrice televisiva e in quella foto eravamo a Monte Carlo per una convention, magari, sai, okay. Grazie, ciao. Mi sembra un po' troppo giovane. Scusa, l'ultima cosa e poi ti saluto, Franco, la domanda è calato notevolmente la richiesta o i budget a disposizione delle aziende per fare queste convention, ma di quanto? Ma del 50-60% nell'ultimo anno. Wow. Ma è ancora lavoro quindi? Ma sai, io sono un vignaiolo, ho un'azienda agricola, ho altri mestieri, nel senso che faccio l'agriturismo, faccio il vino e sono una bellissima. Dimmi il nome del tuo vino. Il vino si chiama Bacco di Vino. Bacco di Vino, perfetto. Sì. Franco, ti ringrazio molto per la chiacchierata, sì, e per il racconto. Grazie a te. Ti auguro una buona giornata. Grazie. Ciao, grazie. Prima di dare la linea alla borsa, visto che appunto anche Franco ci diceva che c'è un 50% è tanto, ma c'è un broker all'ascolto, uno che di lavoro fa sta roba, che la borsa sta crollando e che ci manda un bel racconto che riguarda proprio questa roba qua, una pagina, un episodio della loro vita che riguardi la borsa e che riguarda il crollo generale che l'Occidente sta più o meno ormai avendo da qualche anno. Adesso la borsa e poi voi siete qui. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato Franco, che vedete sul sito ovviamente di Radio 24, alla pagina Voi siete qui, è con una bellissima donna che abbiamo scoperto non essere sua moglie, che si trova sulla sinistra. Franco invece è sulla destra della fotografia. È un bel signore distinto, ha i capelli chiari, corti, è vestito tutto in nero, proprio tono su tono, giacca, camicia e cravatta nere. Si trova ad una cena che abbiamo scoperto essere a Monte Carlo, c'è una tavola imbandita e in primo piano 6 candele accese. vendo tecnopolimeri. Scusate, però sono rapito da questi venditori che continuano a scrivere al 349-238-6666. Vendo tecnopolimeri. Sto tornando a casa dopo una visita interessante ma lontana. Vendo etilometri nel nord-ovest. Vendo applicazione in metalli preziosi per decorare bare e monumenti funebri. Vendo editoria di pregio, libri costosissimi. Non so manco io come ci riesco. Fabrizio, vendo servoscala per disabili. Ah, che sono quelle cose che servono per far salire le carrozzine. Vendo salumi, vendo budella. Questo sembra lo stesso, ma immagino non sia lo stesso. Perché le budella servono per insaccare i salumi, o per altro. Cioè le budella servono per fare... Marco Tulli, per mangiare anche le budella. Vendo cisterne per trasporto polverulenti, cemento, farine, sabbie. Vendo sogni. Mi occupo di mutui. Romantica questa cosa che vede i mutui non come un incubo ma come un sogno. Vendo presse a iniezione per materie plastiche e robotiche. Vabbè. 349-238-6666. Oggi mi è arrivata poi una mail, un messaggio, era un messaggio in realtà sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui. È un messaggio di un'ascoltatrice che si chiama non si chiama Paola, però abbiamo deciso che la chiamiamo Paola, perché mi ha detto: se mi chiami col mio vero nome e leggi le cose che ti ho mandato, mi riconoscono in due secondi. Lei di mestiere fa esattamente questa cosa qua, che è la cosa che faceva anche Franco, che fa anche Franco, cioè organizza convention aziendali. Quando mi ha scritto, la prima cosa che l'ho chiesto è stata la seconda cosa che ho chiesto a Franco, cioè quanto c'è di senso e di sostanza e quanto invece di fuffa. Uso questo termine perché l'ha usato lei stessa. E la sua risposta è stata questa qua. Allora, questa non è una convention aziendale in senso stretto, è piuttosto un evento promozionale, ma guarda, la fuffa è la stessa. L'azienda è giovane giovane, non ha ancora un brand forte e neanche un gran seguito, però è convinta che basti tirare giù qualche nome importante per avere 10.000 persone, sì, hai letto bene, 10.000 persone, che accorreranno, per di più pagando un biglietto. L'evento si farà in una grande città europea perché così è più prestigioso. E da lì sul tavolo si cominciano a calare gli assi de. Allora, l'amico di un amico mio conosce uno che ci può portare un tizio che conosce Nelson Mandela. Ah, io ne ho uno che conosce Steve Jobs. Ah, io invece uno che conosce Topo Gigio. Ti giuro, sono stati nominati tutti, ho dei testimoni. Queste sono tutte persone che naturalmente, non avendo niente da fare, stanno giusto pensando di farsi un weekend in Italia, no? E per questo magari sono anche disposti a rinunciare al loro cachet, che di solito oscilla tra i 200 e i 400 mila euro. Ma perché, scusate ragazzi, mica vorremmo pagarli, no? Scherziamo? L'evento è interessante, vedrai che faranno la fila per venire. Anzi, avremo difficoltà con tutti questi nomi che arriveranno. Guarda, l'unico problema che vedo per questo evento è l'invidia e la competizione tra i grossi nomi presenti. Questo è il mio capo, ovviamente. Forse dovrei crederci anch'io, come ci crede lui. E dovrei suggerire ad esempio di invitare Jennifer Lopez e Madonna insieme. Ci costerebbero lo stesso e le 10.000 persone forse sì, quelle le avremo davvero paganti. Magari facciamo così, li sistemiamo tutti e 10.000 in uno stadio e gli insegniamo anche una di quelle canzoncine da villaggio, no? Con la coreografia e i colori dell'azienda. La D potrebbe avere un orgasmo. Io un aumento. Ah, dimenticavo, budget ovviamente non ce n'è, d'altra parte a cosa serve, no? Siamo fighi, tutti vorranno lavorare con noi. Scusate ragazzi, mica vorrete farvi spaventare dal fatto che non ci sono soldi. Tutti sanno fare eventi con tanti soldi. Noi siamo diversi, dice sempre il mio capo. A un certo punto chiedo quale sarà l'oggetto di tutto questo evento. E i contenuti? Voglio dire, che indirizzo vogliamo dare a questo evento? Quale sarà il messaggio? Ma figurati, ma quale messaggio? Sempre a cercare il pelo nell'uovo tu. È la gente che fa l'evento. Mica li possiamo indirizzare noi. Che poi... altrimenti non gli piace e non vengono nemmeno i paganti. Ma no, lasciamo che siano loro a parlare di quello che preferiscono. Dico Mandela, Steve Jobs e Topo Gigio. Il mio amministratore delegato è un genio. Io, a breve, sarò un alcolista. Ciao, Paola. Lo sai, se ci pensi bene, in realtà non c'è anima viva qui. Credi di vedere persone per i corridoi, ma non è così. Quel che vedi sono funzioni. Questa è la natura di una convention. Fa un po' settimana della moda questo pezzo di Madonna, eh? Milano Fashion Week di qualche anno fa, però. Il pezzo invece che abbiamo mandato a tradimento è un pezzo di Big Kahuna, giusto? 349-238-6666. Li leggerei tutti. Vendo utensili e centri di lavoro per elementi in fibra di carbonio che vengono montati sui Boeing 787 e sui satelliti per telecomunicazione. Grazie Bruno, mi hai fatto felice. Vendo tecnopolimeri, vendo tessere plastiche, vendo valvole a sfera, vendo rifiuti, o meglio ciò che di buono e di valore residua dai rifiuti selezionati. Vendo bombole GPL, vendo paglie, tra parentesi sigarette, per una nota multinazionale del tabacco. Vendo ortodonzia, vendo i biglietti di carta termica dei parcometri degli aeroporti. Sto rientrando a Milano, ero ancora a Padova. Ho scoperto addirittura che cos'è il banqueting. Vedi? Uno dice, se uno non si fosse mai interessato di convention, probabilmente non avrebbe scoperto che cos'è il banqueting. Perché mi ha scritto Monica dicendomi che lei fa 2 o 3 convention al mese perché lavora in un banqueting. Sapete cos'è il banqueting? Hai visto? Ve lo dico io. Aspetta che se trovo la pagina giusta dove l'ho scritta, eccolo qua. Banqueting è un banchetto di alto livello, realizzato in loco. Perché la differenza con i catering è che i catering utilizzano cibo prevalentemente facile da cucinare e da gestire, tipo pizzette, sfogliatine, olive ascolane. Marco Turi, tu che ti devi sposare, queste robe dovresti saperle. Il banqueting è a un livello invece più alto, come un buon ristorante che si trasferisce in una location adatta. Ragazzi, il banqueting. E tu pensa che c'è gente che ancora va a farlo operaio. 349-238-6666. Mi chiamo Daniele, vendo un sistema percutaneo di riparazione della valvola mitrale. Sarà il cuore. Mitrale, ora se lui scrive mitrale, non è che mitralica, magari è sbagliato. Qua tutti pronti a sapere la roba di lì in regia, Tutti. Sono Andrea, Reggio Emilia, vendo pannelli in legno massiccio di legni nobili, costo 700 euro al metro quadro. Vendo piattaforme per lavoro aereo. Tra un cliente e l'altro ti sente. E poi ti sento. Ve lo ricordate il motivatore di Telecom che parlava di Napoleone? No, io non me lo ricordo. Ah, ma certo, quello che non imbroccava una. Sì, quello che parlava di Napoleone. Waterloo, giusto, che disse che Napoleone vinse a Waterloo. 349-238-6666. Ma soprattutto, voi siete qui, @radio24.it per i vostri racconti. Grazie a Paolino Corleoni, a Viola Bottoni, a Tiziano Bonini e a Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Franco e parlava di convention aziendali. Quella di domani è la storia di Marco e parla delle cattiverie senza motivo. La sorpresa mi colpì in faccia, come una sberla. Trovai la lucertola lì, perfettamente trafitta dalla lama ancora vibrante. Immobile, colpita a morte. Tradita da un nefasto destino e da un nascondiglio non troppo efficace. Era stato un caso, e io quasi volevo tornare indietro e rimettere a posto le forbici. Avevo solo fatto un gesto, eppure aveva avuto delle conseguenze.